la lascio a te. Così cornuto ci rimani solo te. E quando me lo succhi, guardami negli occhi. Non sono come uno dei tuoi soliti finocchi. E ora ti è venuto il complesso che sei cornuto e che sei un povero cesso. Davvero non te chiedi perché scopo così spesso. Sei davvero un povero fesso. E ora ti è venuto il complesso che sei cornuto e che sei un povero cesso. Davvero non te chiedi perché scopo così spesso. Sei davvero un povero fesso. Bidibi, bodibi, bodibi, boo. Andiamo in vacanze a Malibu. Boo, che tristezza. Vacanze a Capocotta, ma che schifezza. E quando ti innamori, qual è la conseguenza? Te devi preparare anche alla sofferenza. Non ti ci puoi proprio abituare. Forse quella tipa la devi mollare. No, no, cazzo, dai, dai, no. No, dai, guarda, sto scherzando. L'importante è che c'è scopi di quando in quando. Domande nel tempo e nello spazio. E de figa, non sono mai sazio. E quando la lecco è meglio rasata. Per non trovarmi in bocca peli di patata. Dissin sulla figa, in queste righe sottoscrivo tra le righe che sono un leccafighe. Appassionato dei topa, come tutti i ragazzi. Come tutte le ragazze appassionati per i... Quando arrivo con il mio stile improvvisato, dopo 3 secondi mi rimani senza fiato. Ed oggi me sento pop in condizione. Con te che mi fai scivola come il sapone. La mamma non sa segreti dei famiglia. Ci stanno almeno 2 che si scopano la figlia. Eh già è così. Però secondo me già se l'aspetta. Non c'è donna che non faccia la troietta. E se non è troia lo diventerà. Siamo tutti uguali, è così che va. Già, e siamo tutti puttanieri. Più di una figa fissa nei nostri pensieri. E non c'è sta poco soluzioni. Tutti avemo questa stessa fissazione. E ora ti è venuto il complesso che sei cornuto e che sei un povero cesso. Davvero non te chiedi perché scopo così spesso. Sei davvero un povero fesso. E ora ti è venuto il complesso che sei cornuto e che sei un povero cesso. Davvero non te chiedi perché scopo così spesso. Sei davvero un povero fesso. Dedicata al tipo ed anche a me stesso. Anche a me è capitato d'essere fatto fesso. Tutti quanti che ce cascamo alle merda feste, ma perché ci andiamo? Uomini veri, ecco chi siamo. E per la figa sempre s'avvelenamo. E non me di che me ne so fregato. Per te sono stato sotto e te l'ho dimostrato. Oh, è così e cosa cazzo vuoi? Il cazzo mo l'hai preso, mo so affari tuoi. E riduco a 0 tutta l'eleganza quando rimanemo soli nella stanza. Cazzo te piagni, ora che è finita l'ultima merdata, bovo non l'ho digerita. Non c'è proprio più nulla da fare. Stavolta sarò chiaro, guarda, lascia stare. La saga delle follie 2010, Bunker Studio,